Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ben trovati da Mirko Cavallini studio e di Daici in regia. Iniziamo oggi un percorso interessante, un ciclo breve di tre puntate nel quale parliamo in particolare dei bambini, dei mezzi di comunicazione e di tutto il rapporto, i rischi e le opportunità che su questo ci possono essere. Lo facciamo in questa puntata e poi la ritroveremo tra un paio di settimane con Sandra Costa, che viene da San Donà di Piave, dove fa l'insegnante della scuola primaria e rappresenta anche e lavora e opera all'interno dell'AIART. Benvenuta intanto. Buongiorno. Intanto AIART è una sigla che i nostri fedeli ascoltatori hanno già conosciuto, ma per i distratti ricordiamo che cos'è. Sì, l'AIART è un'associazione spettatori che opera a livello nazionale. Naturalmente non si interessa più solo di radio e televisione, ma si interessa anche di tutti gli altri media. Lo scopo è proprio diffondere la cultura dei media dal punto di vista della competenza, della consapevolezza, dello spirito critico e anche tutelare quelli che sono i soggetti più deboli rispetto ai messaggi che i media trasmettono. E cosa fa? Propone progetti alle scuole, ma progetti anche alle associazioni, alle parrocchie, e organizza corsi di formazione con sia per genitori, sia per insegnanti, sia per educatori, e organizza anche eventi a livello locale, nazionale e anche in collaborazione con altre associazioni, come vedremo il progetto di cui vi parlo oggi, che è proprio un progetto interassociativo da parte di AIART, del MED, che è sempre un'associazione, un movimento che si occupa di educazione ai media, e da parte del Centro di Documentazione di Storia Aldo Mori, con cui abbiamo proprio condiviso questo bel percorso sull'emigrazione, dove l'AIART è entrata con un progetto specifico. Venendoci a parlare, ha preso in considerazione la stampa. La stampa che racconta i cammini di uomini, donne, bambine di ieri e di oggi, e quindi il fenomeno migratorio attraverso lo sguardo dei quotidiani di ieri e di oggi. Intanto ricordo un sito, così se i nostri ascoltatori vogliono andare a curiosare, www.aiart.org, così vi fate un'idea e conoscete meglio questa associazione, con i progetti appunto anche all'interno della scuola, come il caso di questo, che aveva un titolo preciso, piuttosto elaborato, ma che dà l'idea appunto della profondità dell'interesse. Il progetto si chiamava? Si chiama appunto La stampa racconta i cammini di uomini, donne, bambini di ieri e di oggi, il fenomeno migratorio attraverso lo sguardo dei quotidiani. Il laboratorio era proprio sull'apparato iconografico dei quotidiani, perché le fotografie sono quelle che colpiscono di più, che trasmettono molto e che hanno bisogno di essere decodificate. E abbiamo proceduto proprio con una prima parte, che è il corso rivolto agli insegnanti, e gli insegnanti hanno fatto loro stessi il laboratorio, proprio fare per far fare, e questo significa fornire loro delle metodologie, fornire loro i metodi di organizzazione e far fare per poi far fare a loro volta i bambini in classe. Ed entrare appunto anche nel metodo e anche nei problemi che si affrontano, perché magari andando ad indagare, come sempre quando si fanno ricerche e studi, si scoprono cose che non si conoscevano. Esatto. Infatti la novità che praticamente tutti quanti sapevano, erano molto preparati, c'erano più di 30 insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria del territorio sandonatese. Esatto, San Donà, Eraclea, Jesolo, e hanno partecipato in questo laboratorio già con le loro conoscenze, il quotidiano, la scuola lo ha sempre trattato. E quello che è stato interessante è stata proprio invece con la professoressa Montani, che ha condotto il corso, che sarà nostro ospite la settimana prossima, ecco, che proprio ha lavorato sulle immagini e facendole proprio classificare. Abbiamo fatto una vera e propria classificazione delle immagini dei quotidiani, classificandole in immagini simbolo, in immagini interpretazione, in immagini documentazione, in immagini emozione. Questo significa significa dare alle immagini, capire che le immagini hanno una cornice di senso e che parlano in un certo modo, e le abbiamo anche comparate con le notizie, perché non sempre l'immagine è coerente con il testo. Il testo dice una cosa, l'immagine però suggerisce un'altra, e queste sono delle forme così di distorsione in qualche modo che bisogna aiutare a capire, a decodificare, per riuscire a poi dare il senso esatto. È un linguaggio, no? Quindi bisogna conoscere il linguaggio per evitare di cadere in tranelli. Diceva che prima di essere rivolto ai ragazzi, appunto, di scuola primaria, alle classi quinte, se non sbaglio, lo stesso corso è stato fatto con gli insegnanti. È un corso che dura per quanto tempo? È durato per 4 incontri e è iniziato a novembre. Avremo qui a marzo un incontro in cui metteremo a punto un po' a che punto siamo anche con le classi, con il lavoro, con i nostri ragazzi, come sta andando, e anche per cercare di evidenziare se ci sono dei punti critici o qualcosa che vogliamo in qualche maniera socializzare, perché molto spesso dal laboratorio messo in atto vengono fuori degli stimoli che poi si socializzano. Le idee si condividono e si rende più ricco poi il percorso. Questa è la prima occasione o è già stato proposto in anni precedenti? Questo sull'apparato iconografico dei quotidiani l'avevamo già fatto, e anche nel nostro territorio. Rispetto all'immigrazione è una cosa nuova, perché qui c'è la ricerca anche sulle immagini dei quotidiani del tempo, perché abbiamo trattato le migrazioni facendo delle ricerche sia del tempo di fine 800, ma anche delle immigrazioni dopo guerra, insomma, fino ai giorni nostri. E quello che è stato interessante è vedere anche rispetto alle immagini, anche alle vignette, come sono stati rappresentati gli italiani nel tempo. Questo ha creato gran stupore nei nostri ragazzi, vedere quale idea c'era dell'italiano, molto dispregiativa, negativa, e quindi anche lì abbiamo fatto una riflessione, no? Abbiamo fatto una riflessione sullo stereotipo, sull'etichetta, sul pregiudizio che purtroppo abbiamo subito noi e che adesso magari viene subisce applicato qualcun ad altri. Altro. E sì. Allora, proprio da questo ripartiamo tra pochissimo, dopo questa prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Che questo mondo impone a noi di vivere senza certezza alcuna, in vele con il flu, disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro, piegati alle regole del buon mercato. Mi pento, mi dolgo per questo peccato, ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero. Restiamo isolati in cerca di gloria, mediocri e muti e senza memoria, ma guarda, l'estate è tornata, speranza c'è ancora. Ti prego, vivi, vivi, vivi davvero. Tempo impone a noi velocemente vivere una vita. Il frutto del peccato una donna l'ha mangiato, adesso io vorrei un pezzo di torta. Piegati alle regole del buon partito, nessun pregiudizio è mai stato sanato. Raccontami quello che fai per dormire la notte, illusi, delusi dal senso di colpa, costretti da una morale distorta, ma fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego, davvero. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di un progetto interessante sulla comunicazione, su come la stampa ha raccontato il fenomeno delle migrazioni nel corso del tempo, anche dalla fine dell'Ottocento, un progetto promosso all'interno di alcune scuole primarie per iniziativa dell'AIART, Associazione dei Telespettatori, in collaborazione anche con il MED, col Centro Documentazione Aldo Mori. Siamo con Sandra Costa, che è membro dell'AIART e insegnante. Dicevamo, questo percorso fatto prima con gli insegnanti, tra insegnanti, e poi appunto con i ragazzi, con gli alunni, sul tema della migrazione, a partire soprattutto dalle immagini, quindi dai giornali anche di più di un secolo fa fino ai giorni nostri. Ci faccia qualche esempio di cosa è emerso nel corso appunto di queste ricerche, di cosa siete rimasti sorpresi voi insegnanti e anche i ragazzi poi. Sì, e ci siamo accorti innanzitutto che i ragazzi nostri non avevano molto la percezione, o comunque non avevano la conoscenza dell'immigrazione che abbiamo vissuto noi italiani, e quindi ripeto, questo aversi visto rappresentati nelle vignette con un certo stereotipo negativo per loro è stato assolutamente una sorpresa, e poi quindi questo ha aiutato molto nella comprensione di quelle che sono invece che è la storia dei propri compagni, no? Certo, dei loro compagni a scuola, perché ne abbiamo veramente una presenza consistente nelle nostre scuole. E un'altra cosa che è stata interessante è valutare i titoli erano soprattutto, portavano delle parole che erano ridondanti sia all'epoca e sia oggi: ancora, emergenza, allerta, nuova ondata, nuova tragedia. Ecco, quindi questo senso ci dà un po' l'idea che siamo sempre allo stesso stadio, ossia di trovarci di fronte a questo fenomeno sempre impreparati e impotenti. Come quando nevica, no? Sembra una cosa nuova. Esatto, era stata prevista anche in questi giorni con molto anticipo, vero? E invece ci siamo ritrovati impotenti anche questa volta, o impreparati. E questo ci dà un po' la misura di come certi problemi in qualche maniera sembra che non ci riguardino così da vicino, vengono trattati sempre in modo allarmistico ma con poche prospettive di soluzione, e questo crea insicurezza, crea senso anche di sfiducia, crea anche una certa lontananza. E nonostante queste tragedie siano così vicine, esiste quella distanza umana e culturale a volte che è veramente sorprendente, che deve invece interrogarci. Ecco, tra pochi giorni, il 28 febbraio, scade il termine concesso dallo Stato italiano per la presenza dei profughi arrivati ormai 2 anni fa dall'Africa per l'emergenza. Sono passati 2 anni e loro dal 1° di marzo non avranno più uno status in Italia e saranno così abbandonati a loro stessi. Prima, microfoni spenti, citava proprio il caso, no, dei barconi dell'Africa e di un'altra barca che è diventata molto più famosa. Sì, infatti ci siamo accorti ad esempio che i bambini non erano a conoscenza delle tragedie rispetto agli affondamenti di barconi di immigrati. Avevano invece parlato tantissimo, e tutti, appena abbiamo detto bambini, ma vi ricordate questi naufragi? Anche perché avevamo trattato il naufragio di una barca di immigrati nostri, di emigrati nostri verso l'America, e poi avevamo fatto con gli articoli questa comparazione, ma loro si ricordavano solo di Costa Crociere. Quindi questo cosa ci ha fatto pensare? Che non è che le notizie non vengano date, ma bisogna anche pensare come vengono raccolte poi in famiglia, perché quello che ci è parso è che mentre Costa Crociere ha avuto in famiglia quel rimbalzo, quell'essere presa in mano come momento di discussione, di coinvolgimento e di riflessione dentro in famiglia, mentre le altre tragedie vengono lasciate cadere, e questo sembra appunto come qualcosa che vogliamo allontanare, che non ci riguardi, e è questa cosa che invece dobbiamo veramente aiutarci, sia come educatori, e noi faremo anche un momento di riflessione con i genitori su quanto è emerso, perché ci sarà una mostra, perché ci sarà dei prodotti, ci sarà un momento in cui si parlerà e si tratteranno anche queste cose, no? Come uso quel che vedo, come prendo come spunto di riflessione quello che mi viene detto, perché oltre a smontare certi pregiudizi, certe cornici di senso, è importante anche parlare anche di quello che fa un po' male, anche di quello che sentiamo come qualcosa che vorremmo non ci fosse, perché a volte questo è il grande problema, no? Di non voler accettare certi problemi dal punto di vista del poterli superare insieme, ecco. Esatto, come ci sono alcune tragedie o molte guerre che ci sono e sono dimenticate e passano magari in evidenza in qualche notiziario, in qualche giornale, così brevemente, ma cito il caso Siria o il caso Mali, che sono tra i più recenti, ma chi ne parla in questi giorni? Quasi nessuno praticamente, se non alcuni mezzi di informazione, dobbiamo dire, sono quelli cattolici che ogni tanto più di altri ci pensano. Allora, anticipiamo di un minuto l'ultima pausa e poi torniamo per capire anche le finalità generali di questo progetto. A tra poco. Dal mondo della scuola. Frosty morning. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con Sandra Costa, insegnante, membro dell'AIART, che a San Donà di Piave insieme ad altre associazioni ha proposto e realizzato, sta realizzando un progetto sulla stampa, su come la stampa ha raccontato il fenomeno delle migrazioni in questi anni, ma anche dalla fine dell'Ottocento. Un progetto, Sandra, che si inserisce all'interno di finalità più ampie, no? Nei confronti dei ragazzi, perché i bambini spesso si dice sono delle spugne, assorbono tutto, bisogna anche aiutarli però a filtrare i messaggi che arrivano a valanga da tutti i mezzi di comunicazione. Sì, diciamo che possiamo parlare di 5 macro finalità della media education, e nel caso specifico di questo percorso è formare il ragazzo lettore di notizie e di immagini, quindi come parla l'immagine tramite l'inquadratura, che se è un primissimo piano mette in scena le emozioni, un primo piano tra due persone mostra nel dialogo le espressioni di accordo, disaccordo, di sfida, perplessità, che rende il soggetto un po', diciamo, interlocutorio attraverso la mezza figura, o lo colloca nel contesto di azione quando la figura è intera. E bisogna formare anche il ragazzo scrittore di testi mediali, scrivere un articolo, corredarlo di fotografie, sapendo che fotografare significa scrivere con la luce, quindi condurre il gioco della rappresentazione anche dal punto di vista che io posso innalzare, posso sminuire, posso raccontare parzialmente da un preciso punto di vista. Si tratta di metodi di ripresa, di come uso la luce ad esempio con la fotografia. E pensiamo che i ragazzi di oggi usano molto questo, dopo vanno a inserire in YouTube anche le loro produzioni, su Facebook, no? Scrivono, fanno i filmatini, ecco, le foto. Quindi avere consapevolezza del prodotto, per chi si fa, cosa si comunica, qual è l'intenzione comunicativa, renderlo anche esteticamente o con uno stile coerente, sono tutte delle competenze che tanto bene dare, e soprattutto dare anche delle consapevolezze. Il fatto stesso di creare dei prodotti è qualcosa che parla e che poi diventa stanziale, diventa stabile, e da quel punto di vista devono anche stare attenti, nel senso che devo anche rispettare l'altro, no? Devo anche rispettare le sensibilità altre, quindi quello di renderli scrittori penso che sia una grande competenza che bisogna farcene carico. Mi inserisco per dire che ormai la tecnologia ha aiutato un po' tutti a diventare fotografi, tutti a diventare cineoperatori, tutti a diventare giornalisti, ma lo dico da operatore del mondo dell'informazione, non è così, nel senso che è vero che la tecnologia aiuta perché mette in mano tutti certi mezzi, però poi c'è altra cosa, è la capacità di usare i mezzi in un certo modo, in modo professionale, serio e preparato, perché vedo che tutti possono fare i filmati, ma non è che poi tutti i filmati sono di qualità e di contenuto buono. Esatto, quindi renderli proprio responsabili verso il prodotto. Poi formare il ragazzo fruitore, che vuol dire anche insegnargli che la fruizione non è mai passività. Noi per tanto tempo abbiamo sentito parlare il bambino passivo, no? Rispetto alla televisione, rispetto a quello che gli viene proposto. Ecco, bisogna comprendere che più o meno consapevolmente ognuno di noi dialoga con ciò che vede, lo mette in contatto con le proprie esperienze, i propri saperi, il proprio modo di sentire, e si costruisce la propria rappresentazione. Basta capire, dei bambini che vedono lo stesso programma lo racconteranno tutti in modo un po' diverso. Esatto. Anche perché quello che ci arriva non è mai neutro, e noi non siamo neutri, questo vale per qualsiasi cosa. Esatto, quindi. E anche un'altra cosa, cioè noi senza che accorgerci di fatto da quello che ci viene dato dalla TV, da un giornale, da una notizia, di fatto ci si schiera o ci si discosta, si usa ciò che si vede per farsi un'idea, di farsi anche un'idea di come va il mondo, di come vanno le cose. Occorre quindi educare attraverso i media, perché questo dialogo con le immagini e i testi sia sempre più ricco e consapevole. Questa è una grande finalità che dobbiamo raggiungere. Noi con i bambini facciamo proprio dei giochi, no? Rispetto a questa cosa, come ci schieriamo? Mettiamo una linea sul pavimento e ci mettiamo vicino, lontano sulla linea, e questo io mi sposto con il corpo, no? Prendo consapevolezza. Uh-huh. La consapevolezza è una delle cose che veramente scuola, educazione e famiglia devono puntare tanto, perché altrimenti creiamo un mondo di sonnambuli, no? Dove facciamo tutto ma senza sapere. Mi permetto di usare un'espressione scorretta in italiano, ma invece di vivere veniamo vissuti. Esatto. Rendo passivo un verbo che non può esserlo, intransitivo, però, per rendere l'idea. Sì, molto. E quindi da questo il passaggio alla quarta grande finalità, che è il ragazzo, formare il ragazzo critico, colui che impara a chiedersi quale sia l'intenzione comunicativa, a distanziarsi da ciò che parla troppo alla pancia, alle emozioni, a farne oggetto di confronto con gli altri, aderendo o rifiutando la logica con cui si vuole far pensare rispetto a quell'argomento. Anche rispetto all'argomento migrazioni, era molto importante lavorare su quello che può essere tutto un sentito, un modo di dire che purtroppo va a formare lo sfondo cognitivo di molti di noi. Ecco, e questa è la strada anche per arrivare poi al ragazzo cittadino, l'ultima finalità della media education, che nel caso specifico delle migrazioni porta in campo l'essere cittadini in una comunità, in un paese, ma anche cittadini del mondo, quindi l'io comunitario, l'io planetario, dove non perdiamo la nostra identità, ma ci apriamo all'alterità e al dialogo. È la strada per arrivare proprio a smontare quegli stereotipi, quei pregiudizi che si trasformano in vere e proprie costruzioni del nemico. Noi abbiamo la COF che ci parla proprio di guerre civili culturali, e la stampa e l'informazione hanno una grande, i mass media e i media, i nuovi media hanno una grande responsabilità nell'alimentare questo nemico, oppure nel smontarlo un pochettino. Uh-huh. E restituirci l'altro, ecco. Sì, il nemico, il diverso o lo straniero, no? La xenofobia dal greco vuol dire ciò che è straniero, che viene al di fuori del nostro territorio. E quindi questo progetto sta per concludersi con quest'anno scolastico? Sì, si sta per concludere, e diciamo che ci sarà appunto un momento in cui faremo anche una rappresentazione, ad esempio nel caso della mia scuola, che è una scuola primaria, Eraclea, dove si metteranno proprio in scena con un musical i vissuti, non solo ci saranno i quotidiani prodotti dai bambini nelle loro mani, ma ci sarà soprattutto anche la valigia, questo grande simbolo che rappresenta quello che si mette dentro, le proprie radici, ma anche quello che si porta, perché non è che quando si va in un altro paese portiamo anche qualcosa, no? Quindi non è che noi sappiamo che siamo frutto di incontri, di contaminazioni, certo, anche, no? Una formazione. E quindi anche questo è un momento molto importante per i nostri bambini, ecco. Allora, grazie a Sandra Costa, che ritroveremo tra un paio di settimane, ma di questo tema più in generale dei mezzi di comunicazione, dei ragazzi, della famiglia, parleremo anche fra 7 giorni. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin, buon proseguimento. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.